Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Nuovo appuntamento insieme ai nostri amici dell'Associazione Difesa Consumatori di Mestre, quindi un saluto a Gianluca Codognato. Ciao Gianluca. Un saluto a te Francesco e a tutti i radioascoltatori. Allora, oggi parliamo di questa notizia che in qualche modo è già rimbalzata, perché è preoccupante, no? Il fatto che ti arriva una bolletta del gas dove ti chiedono quanto? 50.000 euro. Sì Francesco, quando ci hanno portato questa bolletta siamo rimasti anche noi sconvolti, anche perché, devo essere sincero, c'è stato un periodo in cui queste bollette si potevano vedere, ancora 2-3 anni fa, erano solitamente bollette di conguagli, quindi si potevano vedere delle cifre, bollette da 4, 5, 10 mila euro. Oggettivamente una cifra di questo tipo, esattamente 49 mila e rotti euro, era da tanto tempo che non ne vedevamo, soprattutto perché consideriamo che è riferita a una pensionata di 85 anni, mm-hmm, veneziana, che abita in una casa abbastanza grande, di oltre 100 metri quadri, che è anche una persona che si riscalda abbastanza perché chiaramente anche per la sua età ha bisogno di avere calore in casa, però tutto ma non può giustificare tutto ciò, non può giustificare una cifra così alta per vari motivi. Quindi è riferita questa bolletta a un solo anno di esercizio praticamente, o a pochi mesi? Francesco, allora è incredibile perché il periodo di riferimento è esclusivamente di marzo 2017, quindi sulla bolletta che chiaramente abbiamo qua e vogliamo cercare di capirla, il periodo di riferimento è 27 marzo. Ora ci rendiamo conto che spendere 50.000 euro in così pochi giorni, neanche 5 centri commerciali immagino io che possano farlo, sì, ma neanche durante tutto l'anno. Abbiamo fatto un calcolo basandoci su un'ultima indagine fatta da SOS Tariffe, che mediamente nel 2016 le famiglie hanno speso sui 950 euro in un anno di gas, consumando circa 1200 metri cubi. Invece, avendo guardato la bolletta della signora, va bene, aveva il periodo di riferimento marzo, però poi conteneva dei ricalcoli del 2013 e del 2014, però è incredibile vedere la differenza da un mese all'altro di consumo, perché poi avere un mese in cui la signora risultava che avesse consumato 250 metri cubi e il mese dopo 11.000. Ricordo che la media del 2016 tutto l'anno è stata di 1200, quindi quando ci siamo trovati di fronte a mesi con dei consumi attorno agli 11.000 metri cubi, ci siamo resi conto, insomma, ci siamo resi conto facilmente anche guardando la cifra finale della presenza di un palese errore. Ora, la cosa curiosa, se vogliamo definirla così, è che la bolletta, fortunatamente via PEC, è stata intercettata dal figlio della signora. Il figlio della signora sta facendo i salti mortali per evitare che gli venga portato il cartaceo a casa dal postino, che possa far appunto provocare un malore evidentemente alla signora, che non capirebbe davanti a questa cifra cosa possa essere successo. E quindi diciamo che attualmente noi stiamo gestendo la questione con il figlio, e naturalmente Francesco, è inutile dire che è palese che ci troviamo di fronte ad un errore, e ora attendiamo ovviamente l'intervento del gestore, che è di Enigas. Vediamo un attimo come vorrà gestire la cosa. Lui chiaramente adesso si dovrà rivolgere al nostro ufficio legale e gestiremo assieme, cerchiamo di andare a individuare l'errore e ovviamente andiamo a chiedere una nuova fatturazione. Ovviamente Francesco, mai e poi mai possiamo pensare che questa cifra resti tale. Beh, mi sembra ovvio che da qualche parte c'è un errore palese, addirittura vergognoso che si possano mandare delle bollette del genere, cioè è una cosa che non dovrebbe proprio accadere, anche se mi sembra di aver capito che a questa signora arrivavano in taluni mesi delle bollette irrisorie di qualche decina di euro e altre con qualche migliaia di euro, quindi è sempre stato una contabilizzazione altalenante quella che ha ricevuto nel tempo questa signora. Fatturazione anomala in tutti i sensi, e tanto che lo stesso figlio appunto, quando ci ha raccontato un po' la situazione, ci ha detto appunto: io a volte vedevo delle bollette di mia madre da 70 euro, che mi dicevo che anch'io a questo punto vorrei avere delle bollette del genere, però andava a contestarle, cioè diceva: ma siete sicuri che siano giusti 70 euro per il riscaldamento? E la bolletta dopo era di 3.000 euro. Diciamo, non è, deve essere stata una grande gestione quindi della fatturazione. Poi però io mi domando, però guarda, non voglio neanche mettere il dito nella piaga, però mi domando come si possa poi pensare di emettere una fattura di 50.000 euro a favore di una persona che vive da sola senza domandarsi se non ci possa essere un errore. Eh beh, perché mi sembra impossibile che insomma qualcuno, chi la emette, dovrebbe comunque farsi una domanda: come posso chiedere 50.000 euro a una fattura e a una signora che ha tutti i pagamenti regolari precedenti? Perché c'è anche da dire questo, perché noi abbiamo fatto un calcolo, Francesco, neanche se non avesse pagato per 50 anni, cioè di fronte a 50 anni di mancato pagamento quella cifra poteva anche esserci, poteva raggiungere quella cifra. Ma una signora che ha pagato tutto regolarmente, attenzione, poi vista anche la fatturazione anomala, il figlio ha continuato a fare l'autolettura, anzi ha iniziato a fare l'autolettura, quindi anche da questo punto di vista un comportamento molto ligio. Ripeto, noi abbiamo la fattura nella quale è spiegato chiaramente che le fatture precedenti sono tutte regolarmente pagate. Ci rendiamo conto insomma che qua ci troviamo di fronte a un errore clamoroso. Ora noi ci attendiamo in questa settimana l'intervento di Eni e diciamo che vogliamo anche tenermi informate, perché è una storia sicuramente che attira, tra virgolette, nel senso che comunque colpisce. Per cui ecco, sicuramente vi aggiorneremo anche sugli sviluppi. Sicuri ovviamente che questa bolletta verrà totalmente stornata e alla fine la signora forse non saprà neanche mai quello che le è successo, perché magari, diciamo, l'avrà vissuta solo il figlio. Ecco, magari lo viene a scoprire ascoltando Blu Radio Veneto. Ecco, non abbiamo fatto molti riferimenti, no, infatti, e quindi infatti, non dovrebbe riconoscerci. Va bene, li abbiamo evitati proprio per questo, anche nella comunicazione che abbiamo fatto, perché ecco, la donna, la signora che è molto sveglia, come ci racconta il figlio, non doveva assolutamente riconoscersi in questa vicenda. Eh sì, sì, è bene evitare di far prendere spauracchia delle persone anziane. Allora, ricordo che c'è il sito associazionedifesaconsumatori.it che potete andare a visionare, perché trovate sempre qualche cosa di interessante, e poi anche i numeri di telefono. Grazie Gianluca Codognato, a tra qualche giorno. Grazie a te, Francesco. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.